La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 21 di giugno qui dagli studi di Milano vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. La versione di Oscar, come sempre, Oscar Giannino, vi ricordo l'indirizzo: la versione di Oscar @radio24.it, e vi dice di che cosa parliamo oggi. Lo spunto è offerto dall'assemblea annuale di Confartigianato che si è tenuta ieri. Sapete che io, noi abbiamo un editore, Confindustria, però io da sempre in questi anni ho mantenuto vivissimo e aperto un canale dando voce a tutte le associazioni varie e diverse d'impresa, e siamo un paese in cui le classi dimensionali sono quelle dell'impresa piccola e piccolissima. Siamo un paese con che tra i suoi punti di forza, poi a un certo punto è diventato quasi debolezza, sembra, è quello della percentuale molto alta di autoimprenditorialità sin da quando si è giovani, vocazione che molti a sinistra e molti tributaristi italiani, cioè quelli che hanno disegnato, voglio dire, il sistema fiscale, hanno immaginato come un punto di debolezza la produttività italiana, da sfoltire il più possibile, perché unità produttive troppo piccole sono appunto a bassa produttività e quindi tanto falcidiare di tasse, per essere chiari. Però detto tutto questo, all'assemblea di ieri mi hanno colpito due aspetti. Il primo è il rapporto su cui ci soffermeremo più a lungo, e cioè quello delle 13 zavorre che gravano sulle piccole imprese del nostro paese. È un aggiornamento annuale che come altre associazioni, però anche Confartigianato fa, e con questi numeri esplicativi ed esemplificativi, secondo me si tenta giustificatamente e con efficacia di comunicazione di contrastare quello che la politica invece incessantemente ripete. La politica dice che le tasse le sta tagliando, la politica riesce a ottenere oggi da tutti i quotidiani italiani, mi dispiace cari colleghi, anche solo 24 ore, sì, il resoconto della spending review di Guttgart, come se si fossero tagliati 30 miliardi di spesa pubblica, e invece chiunque faccia il nostro mestiere ha l'obbligo di dire a chi ci ascolta, a chi ci legge, che non è così, perché sono semplicemente state individuate voci di spesa corrente e sono state rispostate nella spesa corrente, perché i documenti ufficiali del governo dicono che il totale della diminuzione in termini reali netti 2016 sul 2015 della spesa corrente è stato in totale di 41 milioni, e per il resto, per arrivare a 380, sono solo risparmi di spesa per investimenti, capite? Allora, questa è la durezza della guerra psicologica che va combattuta contro le menzogne pubbliche nell'andamento dell'economia, nell'andamento delle tasse, nei ranking comparati. Ci sono sempre i professor Fortis che dicono che le cose invece vanno molto meglio addirittura di quanto la stessa politica dica. Quindi per questo io benedico il fatto che ci siano associazioni di impresa che si preoccupano di mettere i puntini sulle i. Non si tratta di fare propaganda politica, si tratta di diffidare della propaganda politica, non si tratta di essere antistatualisti, al contrario, si tratta però di diffidare di chi dice che lo Stato ottiene ottimi risultati quando in termini comparati non è affatto vero. Ecco, diciamo che è un servizio reso all'oggettività. Allora, per parlarne, perché questo è il secondo aspetto, però iniziamo dal primo, perché ci sono anche aggiornamenti di numeri del mondo delle imprese artigiane italiane con qualche successo, siccome le cose appunto vanno bene, ci sono dei meriti straordinari che riescono a ottenere risultati, tanto vale partire da quelli. Comunque, per parlarne è con noi, molto lo ringrazio, Cesare Fumagalli, che è segretario generale di Confartigianato. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, cominciamo dai numeri positivi, perché io non sono disposto a credere che molti in ascolto sappiano che oltre un quarto del totale dell'export italiano lo fanno le imprese artigiane. Sono i numeri che lo dicono. Noi, senza ostentazioni, ma proprio andando ad analizzare qual è la quota di export nei settori dove è più alta la concentrazione di piccole imprese di artigianato, possiamo dire che fortunatamente nel 2016 si è raggiunto il miglior risultato, che è quello di avere 117 miliardi di export realizzato proprio da questo mondo. Questa è quota diretta del mondo dell'artigianato e della microimpresa italiana. Ragazzi, e devo dire che insomma anche In termini di produttività, perché l'argomento storico che rievocavo prima, quello piccole imprese, problema della produttività. Sappiamo poi invece negli ultimi anni dai rapporti dedicati all'Istat sul problema della produttività, quello rapporto di produttività 2017 uscito a marzo, l'ho trovato sul sito dell'Istat, che invece il vero problema della produttività sta nei settori non esposti alla concorrenza, sia pubblici che privati, di offerta di servizi, soprattutto in questi sono quelli che hanno l'andamento della produttività multifattoriale negativa a differenza degli altri che ce l'hanno positiva. E anche qui infatti sulla produttività delle piccole e micro imprese ieri un dato mi ha molto colpito. Sì, la premesso credo che sia uno degli indicatori più su cui forse dubitare di più, sì. con più, però lo trascuro, metto tra parentesi, prendiamo quello che tengono per buono in tante analisi che hanno condannato, lo ricordava lei prima Giannino, hanno condannato le piccole imprese per il fatto di essere piccole tout court, prendiamo quello per buono e negli ultimi 3 anni le piccole imprese manifatturiere hanno fatto più e meglio delle grandi imprese italiane, hanno fatto più e meglio delle omologhe piccole aziende tedesche. La produttività da noi negli ultimi 3 anni delle piccole imprese è cresciuta di oltre il 10%, nello stesso periodo le grandi imprese italiane la produttività è cresciuta dell'1,6%, nelle piccole aziende tedesche è cresciuta del 0,8%. Ecco, senza fare imbrogli, appunto, perché però... dire, siamo a misurare i delta e le condizioni di partenza sono diverse, ma per rispondere proprio voler stare sullo stesso piano, noi abbiamo voluto condurre questa analisi utilizzando indicatori che non ci soddisfano del tutto, ma prendendoli per buoni e facendo il confronto su quello, le piccole imprese italiane negli ultimi 3 anni realizzano per sotto questo versante una performance per qualche verso straordinaria. A me piacerebbe, devo dire, un paese che considerasse la produttività come si misura innanzitutto? A, B, come si misura in termini comparati tra paesi in cui le classi dimensionali sono diverse, perché questo comporta anche problemi sugli indicatori di misura della produttività. Ma comunque detto tutto questo, quindi io su questo condivido quello che vi ha appena detto Giuseppe Fumagalli, dal punto di vista, per così dire, dell'affidabilità statistica. Ma detto tutto questo, mi piacerebbe un paese che facesse della produttività multifattoriale il problema numero uno nel nostro paese. Siccome significa mettere sotto schiaffo però tutti i settori non esposti alla concorrenza, tutto il settore delle gare pubbliche, tutto il settore... ecco, questo la politica non lo fa, eppure è quello che spinge giù la produttività italiana. Ci sono pochi dubbi, ormai l'Istat, devo dire, ha affinato negli anni, nei suoi rapporti annuali, le analisi. Vedremo nel tempo. Allora, detto questo, e rendendo merito quindi a ciò che di ottimo, non di buono, di ottimo viene in questa traiettoria di lenta uscita dalla crisi, ma... di ottimo viene dal mondo delle imprese artigiane, andiamo a questa cosa efficace, secondo me, delle 13 zavorre, per così dire. Da quale vogliamo cominciare, Fumagalli? Beh, la prima, la più importante, quella che condiziona più di tutti, il tema della pressione fiscale, l'aumento della scendono pressione fiscale. Scendono, dice la politica, scendono degli zero e qualcosa fatte sull'ultimo anno, se consideriamo l'arco dei 10 anni che ci separano dalle prime avvisaglie della ultima crisi mondiale dal 2007 ad oggi, voglio solo ricordare, così credo che nessuno abbia più dubbi, che la spesa pubblica in Italia e il debito pubblico italiano è cresciuto di 33 punti, un'enormità, ed è ovvio che la crescita del debito pubblico ha un pendant dell'infilare le mani nelle tasche inevitabile, l'abbiamo conosciuto con le punte seguite al 2011, alla grave crisi del 2011, con un innalzamento così forte che in questo ultimo anno, ultimo biennio, sì, abbiamo conosciuto un calo, ma per scendere da quel picco che si è raggiunto nel post 2011. E infatti voi avete fatto una media, avete quantificato rispetto a un piccolo imprenditore italiano, rispetto a un piccolo imprenditore europeo, quanto paga di più rispetto alla media. Rispetto alla media dei colleghi dell'euro, dell'Eurozona, sono 24,3 miliardi di euro in più all'anno. Direi che è una finanziaria di differenza all'anno che si potrebbe fare, riferita alla pressione fiscale maggiore esercitata, che produce come gettito verso l'erario da parte delle imprese questo valore di 24,3 miliardi di euro all'anno. Stiamo parlando di un 1,3% di PIL ogni anno rispetto alla media europea in più, questo per ricordarlo sempre alla politica. E accanto a questo voglio dire che è il tema dei temi, quello della pressione fiscale. Ci sono poi una serie di pressioni fiscali meno note, meno evidenti, su cui noi abbiamo richiamato e richiamiamo l'attenzione. C'è per esempio il tema dell'imposizione locale, del cosiddetto corrispettivo a fronte di alcuni servizi locali. Il servizio rifiuti è cresciuto fra il 2007 e quest'anno del 43%. Queste sono dinamiche che non rispondono a nessun mercato. Dovrebbe essere il corrispettivo di un servizio, si capisce facilmente che stiamo parlando d'altro. Un'altra, per rimanere sul classico, il cuneo fiscale, 47,8%, 11,8 punti, quasi 12 punti in più rispetto alla media europea. Questo credo sarà uno dei temi, quello di cosa fare nella prossima legge di bilancio con le tutt'altro che infinite risorse a disposizione, dove concentrare il possibile intervento in favore delle imprese. Noi ieri in assemblea il presidente Merletti ha dato un'indicazione, noi vogliamo che quale sia la scelta abbia una concentrazione su una fascia di età riferita ai giovani, e noi siamo anche per non andare troppo alti nel limite superiore della fascia di età dei soggetti da incentivare. Guardi, io su questo io spero solo che la politica offra un orecchio al bilancio di 50 miliardi di bonus a tempo, lo ripeto scandendo, 50 miliardi di bonus a tempo decisi negli anni del governo Renzi, nel senso che la politica presta un orecchio al fatto che i bonus a tempo hanno un effetto di impatto minore sul PIL potenziale per il solo fatto di essere a tempo, perché non sono misure universali e permanenti. In quanto misure non universali, sono iperdiscrezionali. Se la discrezionalità è fatta per corti anagrafiche, io sono favorevole, perché è una delle tragedie dell'andamento del patrimonio e del reddito del nostro paese, di welfare e di regole non per giovani. Ok, ma non è stato questo il criterio scelto per gli 80 euro, tanto per essere chiari, i cui effetti sui consumi sono stati infinitamente più bassi di quanto non si aspettasse il governo, e cui effetti redistributivi sono descritti dal solo fatto che non sono andati a chi aveva meno, gli incapienti, detto per essere chiaro. Però siccome abbiamo utilizzato più di 3 punti di PIL in questo giochetto, che associati a una misura universale permanente su almeno alcune delle grandi poste di divario rispetto ai nostri paesi competitor, fosse il cuneo fiscale, fosse l'abbattimento totale dell'IRAP, quello che volete voi, avrebbero avuto effetti secondo me larghissimamente superiori rispetto che a decidere a spanne. Su questo il governo che vi dice, che vi fa capire in vista della prossima legge di bilancio, Fumagalli? Credo che le indicazioni, se riusciremo anche a concentrare le indicazioni, a non divaricare troppo fra i soggetti che interloquiscono con il governo nella legittima attività di rappresentanza degli interessi, si possa anche andare nella direzione di mirare proprio questo aspetto. Voglio ricordare ancora un dato: a me non piacciono le meraviglie che si riferiscono all'ultimo trimestre o i disastri che si riferiscono all'ultimo semestre. Prendo un dato sull'arco del decennio, l'occupazione che ha conosciuto dei disastri in questo arco ha avuto un recupero nell'ultimo biennio, vede però proprio il dato decennale, la quota degli under 35 occupati è caduto di 8,7 punti. Quella dei senior oltre i 55 anni è salita di 7,3 punti. E questo è il segnale di l'emergenza vera di cui parlavo prima, una delle più gravi. Traffico, e torniamo dopo un minuto. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta la versione di Oscar. Ed eccoci qui tornati in diretta qui a parlare con Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato, dei temi trattati ieri nell'assemblea annuale di Confartigianato. Siamo partiti dai numeri positivi del contributo delle piccole e micro imprese italiane all'export, alla produttività del nostro paese. Stiamo esaminando alcune delle 13 zavorre, come insomma è intitolato il rapporto del Centro Studi Confartigianato presentato ieri. Siamo partiti dal fisco, carico fiscale, il cuneo fiscale, alcuni andamenti di alcune imposte, per esempio quelle sui rifiuti. Naturalmente, andando a vedere poi tutte le voci del conto economico, ci sono degli andamenti e delle voci che pesano in termini negativi per chi è così matto da continuare a fare impresa nel nostro paese. Per esempio, la tassazione energia è superiore di 0,9 punti percentuali rispetto alla media dell'eurozona. Però c'è un punto classico che mi ha molto colpito e che secondo me vale la pena di approfondire tra il pubblico e il privato: è l'assenteismo da malattia, Fumagalli. Vantiamo purtroppo, lo dico con dispiacere, senza nessun compiacimento, non abbiamo ceduto proprio a nessuna intonazione preconcetta, però i nostri dati rilevano purtroppo una crescita di più di 12 punti percentuali del tasso di assenteismo da malattia nel settore pubblico, che ha fatto un più 14%, cioè è cresciuto l'assenteismo più 14% contro il 2,7 del settore privato. Abbiamo confrontato la dinamica dei certificati di malattia nel periodo che va fra il 2012 e il 2015. Perché? Perché è uno degli indicatori sul tema della efficienza della spesa pubblica. Nella giornata di ieri c'è stata anche questa presentazione dei risultati da parte del commissario alla Spending Review. Uno dei temi su cui hanno giustamente insistito nel titolo è non solo tagli, l'ha detto il presidente Gentiloni, ma i tagli servono per restituire efficienza. Ecco, quando parliamo di settore pubblico, quello che ci aspettiamo non è solo tagli, è efficienza. Però, dal punto di vista dell'efficienza, è un andamento di quelli che lasciano senza parole, però, perché se l'aumento, la dinamica dei certificati di malattia è del 14,9% nel settore pubblico rispetto al 2,7% nel settore privato tra 2012 e 2015. Cari ascoltatori, è come quando parliamo della legge 104 e così via, cioè questi problemi sono eterni e stanno lì, però rispetto a questi la volontà di intervenire per abbatterli e considerarli pubblicamente indicatori così come indicatori che devono allinearsi punto tra pubblico e privato, però io ormai sto invecchiando. Un giorno me ne andrò, ma credo che però le cose vanno peggio e non meglio. Questa è la mia impressione. Vale, ancora su questo fronte, Giannino, ieri abbiamo detto al ministro Calenda, col quale stiamo condividendo gli sforzi per incentivare la digitalizzazione delle piccole imprese, perché noi riteniamo particolarmente idonee le nostre piccole imprese nella capacità di abbinare il saper fare alle nuove tecnologie. Riteniamo che ne esca un mix formidabile che ci differenzia da altri paesi produttori e quindi capace di essere distintivo su mercati dove sempre più la distintività fa premio. Dicevo, in questo abbiamo analizzato per esempio quanti sono i comuni, degli oltre 8.000 comuni italiani, quelli nei quali si possono fare pratiche online. Disarmante, l'esito è il 3% dei comuni italiani dà la possibilità a cittadini e imprese di avere interlocuzioni online, di fare pratiche online, di assolvere ad adempimenti online. Il 3%? Il 3%. E il ministro che va detto? L'indicazione è continuate voi, preoccupatevi voi, ognuno per la propria parte, ed è vero, noi per l'amor del cielo fare i predicatori verso gli altri, ma questi altri sono elementi della produttività totale dei fattori che lei ricordava. Noi facciamo il tifo per avere un'amministrazione pubblica efficiente, perché questa riesce a stare al fianco delle imprese e diventare fattore di competitività. A rovescio si ottiene l'effetto contrario, cioè di attaccare ancora qualcosa in più a frenare. Noi vorremmo avere liberi tutte le ganasce, liberi da tutti i freni, e abbiamo comunque bisogno poi di fare tutti gli interventi anche nel mondo delle imprese, delle piccole imprese, di modernizzazione, di adeguamento ai mercati, di crescita nella capacità di internazionalizzazione. Ci mancherebbe, non vogliamo porci nella condizione di chi fa la predica agli altri e non guarda i propri interventi che deve fare. Però non può essere che si continui a esasperare la produttività all'interno dell'impresa per ritrovarci poi che le interlocuzioni con... Cito un altro dato che purtroppo abbiamo evidenziato: è tornato a crescere lo stock dei debiti, esatto, della pubblica amministrazione verso le imprese fornitrici. Tornato a crescere, siamo ritornati a 64 miliardi, abbiamo peggiorato i dati di un anno fa, e è cresciuto purtroppo anche il tempo di attesa per avere pagato questi. Noi abbiamo rilanciato una ricetta che ripetiamo e ripeteremo fino all'ossessione. Noi riteniamo che se si introducesse la compensazione diretta universale debiti e crediti, esatto, quello che devo avere dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, dalla Provincia, dall'ASL, da qualsiasi soggetto pubblico, lo devo poter compensare con quello che devo versare a qualsiasi titolo impositivo, di tassazione, di contribuzione. Non può essere che non funzioni a due vie. Ricordo a tutti gli ascoltatori che il tema del sarà risolto entro settembre, questa era la scommessa pubblica fatta da Vespa Porta a Porta, era l'anno del signore 2014, scommessa fatta nel mese di aprile 2014 dall'allora presidente Consiglio Renzi, e posta in palio altrimenti andare a piedi al santuario del Senario. Naturalmente la sconfitta è venuta, perché purtroppo per tutti, per noi, come si vede, il problema del debito commerciale non onorato dallo Stato non è stato risolto. Naturalmente il tema è sparito dalla comunicazione pubblica proprio per questo, per non rilevare una sconfitta clamorosa. Naturalmente nessuno è andato neanche al santuario. Io ringrazio Cesare Fumagalli e Merletti, che è il presidente di Confartigianato, per tutto quello che fanno. Continuate a farlo, cari ascoltatori di Radio 24. Appuntamento domani mattina, naturalmente, come sempre, alle 8:15 con me, Alessandro Milan, attenti. 2 fino alle 9:30.